è da 50 anni, corporatura robusta e capelli in disordine. Piace leggere gialli e spesso disegna aquiloni. Nel suo cuore un oceano che i suoi occhi prosciugano. Vento di primavera come lecca, lecca, usa le sbarre della cella. Scende lungo i prati, accarezza le gambe delle passanti. Non voglio mica uscire da qui, no, sono colpevole così. E se di notte piangerò, premurosi con lei che so che ho. In fretta passi in bicicletta e la coda dell'occhio scorgi me. Accelera l'andatura, mi porta l'indifferenza in casa tua. Cielo a quadrati non è poi tanto male. I regoli costruiva rifugi per i voli del suo albatro. Nel suo cuore ferite che i suoi anni non comprendevano. Vento di primavera trasporta ombre alla finestra di Med. Dalle mura una risata sale lasciando il buio, bacia il sole. Non usciremo più da qui, siamo colpevoli così. Abbiamo giudicato e condannato, ci siamo sbagliati, quel che sanno è questa prigione senza mura, si esce solo per la sepoltura. Abbiamo giudicato e condannato,